Liberalizzazioni, accordo trovato sulle farmacie, una ogni 3.300 abitanti. Arriva il rating sulla legalità per le imprese. Ancora proteste contro la TAV, restano gravi le condizioni di Luca Abba. Il ministro Cancellieri dice un fatto grave, ci vuole riflessione e dialogo. Il tesoro colloca 6,25 miliardi di BTP, tassi in calo e buona la domanda. Piazza Affari annulla i guadagni dopo l'asta. Evasione fiscale, il comandante della Guardia di Finanza Di Paolo avverte, previsti controlli in tutte le province d'Italia. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano il decreto sulle liberalizzazioni, molte le novità delle ultime ore. Allora ci racconta tutto in diretta da Roma la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno Balzello. Sulle grandi società, accordo sulle farmacie, licenze, taxi ai comuni. Il decreto liberalizzazione sta per approdare in aula al Senato dopo la seduta notturna in Commissione Industria e dopo l'accordo di ieri in Commissione sulle imposte agli immobili della Chiesa. Il contributo sulle grandi società è pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante l'ultimo bilancio delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro. C'è poi l'istituzione di 20 tribunali delle imprese su tutto il territorio. Arriva il rating della località per le imprese con l'obiettivo di premiare le aziende che operano sul territorio nazionale correttamente attraverso accesso al credito e agevolazioni pubbliche. Possibilità per i giovani under 35 di aprire una SRL anche con un solo euro di capitale, gratis il notaio per lo svolgimento delle pratiche. Via libera anche alla separazione tra Eni e Snam, ovvero lo scorporo della rete del gas che sarà realtà da settembre 2013. Riguardo ai taxi e alle farmacie è raggiunto un accordo che stabilisce la possibilità di apertura per ogni 3.300 abitanti che permetterà 5.000 nuove farmacie. Riguardo ai taxi, le competenze sulle licenze rimarranno ai comuni. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Non si possono portare via i soldi delle regioni, così il presidente della regione Piemonte Roberto Cota sul provvedimento contenuto nel decreto sulle liberalizzazioni che prevede lo spostamento alla tesoreria centrale di Roma del 50% della liquidità di cassa delle regioni al 24 gennaio. La regione Veneto, come sapete, ha già fatto ricorso al TAR. Sentiamo Cota al microfono di Simone Spezia. Noi abbiamo fatto e già depositato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale e con una richiesta di udienza in sospensiva, cioè con una richiesta di sospensione del provvedimento. Il ricorso alla Corte Costituzionale è motivato dalla palese incostituzionalità di questa norma. Adesso le regioni hanno autonomia finanziaria e autonomia fiscale, non si possono portare via i soldi delle regioni. E però il decreto prevede che i fondi restino nella disponibilità delle autonomie locali, o mi sbaglio? No, i soldi vengono trasferiti su un conto che è diciamo formalmente intestato, individuato con riferimento all'ente locale di riferimento, però è nella tesoreria unica dello Stato. È come se a lei dicessero: guardi, tutti i tuoi risparmi te li portiamo via e te li gestiamo noi. Questo dove succedeva? Ma non lo so se succedeva col fascismo. Le misure prese per stabilizzare la situazione nella zona euro stanno dando i loro frutti. Così i leader dell'Unione Europea nella bozza di conclusioni del vertice di giovedì dedicato alla crescita, bozza circolata questa mattina. Intanto, saltato l'Euro Summit previsto per venerdì al termine del vertice a 27, i leader della zona euro si riuniranno probabilmente entro marzo per discutere del fondo salva stati. L'annullamento dell'incontro è dovuto alla Germania che ha chiesto più tempo. E in Italia questa mattina l'asta dei BTP a 5 e 10 anni, sentiamo com'è andata dalla nostra Deborah Rosciani. È andata bene perché il Tesoro italiano è riuscito a collocare tutto l'importo che aveva previsto con una domanda che è stata anche piuttosto alta, ma la notizia ancora più buona è che praticamente i rendimenti sia per i BTP decennali che per quelli a 5 anni sono ritornati praticamente sui livelli pre-crisi, prima del semestre nero, quello che ha portato lo spread a volare ad oltre 570 punti base, appunto i rendimenti rendimenti dei BTP decennali fra il 6 e il 7%. E allora, andando per ordine, il Tesoro ha collocato BTP con scadenza a 10 anni per un importo di 3 miliardi 750 milioni di euro. Il rendimento chiesto dal mercato è stato del 5,50%, in discesa rispetto al 6% dello scorso 30 gennaio. Il 30 agosto eravamo sul 5,22%. Per quello che riguarda invece i BTP con scadenza a 5 anni, anche in questo caso il Tesoro ha collocato tutto l'importo che aveva previsto, 2 miliardi e mezzo. Il tasso è sceso al 4,19% dal 5,39% dello scorso 30 gennaio. In questo caso siamo sui livelli del giugno dello scorso anno. Tutto questo naturalmente ha rappresentato una buona notizia, anche se la borsa non ne ha beneficiato più di tanto. Oggi i listini europei tentavano un recupero dopo i cali di ieri, recupero molto modesto. Milano ha un più 0,19% appena, ancora sono in difficoltà molte banche, ma in ogni caso appunto quantomeno un tentativo c'è. D'altronde l'incertezza sulla Grecia ancora regna sovrana dopo che Standard & Poor's ha tagliato il rating sul paese ellenico a SD, livello corrispondente praticamente a default selettivo. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani e chiudiamo la pagina economica con i dati di giornata dell'Istat. Le retribuzioni lorde per dipendente delle grandi imprese, quelle con più di 500 dipendenti, sono aumentate nella media del 2011 dello 0,7%, mentre il costo del lavoro è aumentato dello 0,8%. L'aumento dei salari è inferiore all'inflazione registrata nell'anno, cioè 2,8%. Ed ora le proteste contro la TAV in Val di Susa dopo l'incidente di ieri, quando Luca Bà, come sapete, è caduto da un traliccio e rimasto gravemente ferito. Ci colleghiamo con Torino per gli ultimi aggiornamenti con Maria Chiara Voci. Sì, buongiorno, è stabile ma non è ancora fuori pericolo Luca Bà, il manifestante Notav che è rimasto folgorato ieri ed è caduto da un'altezza di 15 metri mentre protestava contro l'avvio delle operazioni di allargamento del cantiere della TAV. Come ha spiegato da pochi minuti in una conferenza stampa Maurizio Berardino, direttore del DEA del CTO di Torino, il paziente ha trascorso una notte tranquilla e regge bene la terapia. Impossibile però ad oggi valutare gli eventuali danni a organi interni e la risonanza di verifica sarà effettuata solo giovedì. I medici sono comunque ottimisti. Nel frattempo però in Val di Susa la situazione è di nuovo caldissima. Dopo il blocco sulla 32 che è proseguito per tutta la notte, le forze dell'ordine sono intervenute da poco con un idrante e un lancio di lacrimogeni per sgomberare circa 200 manifestanti e per consentire così la riapertura del collegamento. Resta il presidio sulla statale 25 e questa sera è convocata una riunione in prefettura con i sindaci della valle a Torino. Grazie. Per il momento è tutto. Grazie a Maria Chiara Voci da Torino per questo aggiornamento. Intanto il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri invita tutti al dialogo e all'equilibrio. Invita alla calma e al dialogo il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri dopo l'incidente di ieri in Val di Susa. Un fatto molto triste e grave perché tocca una persona giovane, lo descrive la responsabile del Viminale, il cui auspicio è che quanto accaduto ora non esasperi ancora di più gli animi. Per questo, spiega, ci vogliono riflessione, dialogo ed equilibrio. La sua preoccupazione, e con lei quella delle forze dell'ordine, è che l'avvio degli espropri dei terreni destinati all'alta velocità possa portare ad un innalzamento del livello dello scontro. Il rischio per le forze dell'ordine resta quello di trovarsi di fronte a frange violente che agiscono mischiandosi ai manifestanti pacifici in un ambiente difficile da controllare e col sostegno di una comunità fermamente contraria alla TAV. Un fronte di lotta molto articolato, anche se riconducibile in gran parte all'area antagonista e anarco-insurrezionalista, un movimento che nonostante la sua frammentazione sembra determinato a resistere ad oltranza contro la realizzazione dell'alta velocità, hanno avvertito ieri i servizi segreti nella loro relazione al Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sono in corso le operazioni di rimorchio della Costa Allegra, finita la deriva al largo delle Seychelles per un incendio in sala macchine. Le fiamme hanno subito danneggiato il quadro elettrico e hanno lasciato la nave quasi al buio, dotata solo di luci e servizi essenziali. La compagnia comunque ha escluso il dolo e sono ancora incerte le cause. Stanno bene però il migliaio di passeggeri a bordo e non è ancora chiaro il numero degli italiani, se 212 o 135. Il comandante ha attuato subito il protocollo di emergenza e l'armatore ha attivato un'unità di crisi. Sono stati contattati tutti i numeri di emergenza dei passeggeri e avvisati parenti e famiglie, ma c'è ancora l'eco dell'incidente avvenuto soltanto un mese e mezzo fa alla Costa Concordia. Concordia, all'isola del Giglio, e la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Il peschereccio francese Trevignon, lungo 90 metri in navigazione nella zona, ha raggiunto ieri intorno alle 23 ore italiana la nave Costa Allegra, che era in navigazione a 200 miglia dall'arcipelago a nord-est del Madagascar. Novità sui tempi di recupero. Sinceramente dispiaciuta, Costa Crociere informa che per garantire la massima sicurezza degli ospiti a bordo non sarà possibile effettuare lo sbarco degli ospiti sull'isola di Deroche ed è stato pertanto deciso che la nave verrà trainata fino a Mahé. L'arrivo è previsto nella mattinata di giovedì 1 marzo, ora locale. Intanto, continui collegamenti via elicottero con la nave garantiranno il rifornimento di cibo, generi di conforto, torce elettriche. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La causa dell'incidente, secondo Remo Di Fiore, responsabile dell'ITF, l'associazione che rappresenta i lavoratori del mare, è l'esasperazione del business delle crociere, come spiega ad Anna Marino. È chiaramente una coincidenza, sfortunata finché vuole, ma una coincidenza, come capita o è capitato ad altre società. Costa Crociere è l'azienda più certificata, più controllata e più, come posso dire, verificata per queste problematiche. Ha delle certificazioni aggiuntive che altre aziende non hanno. Allora, qual è il vero nodo? Negli ultimi anni si è assistito ad un crescendo nella dimensione delle navi da crociera, nel numero dei passeggeri trasportati, e questo è dovuto al fatto che il mondo delle crociere, per essere competitivo, per far fronte alla crisi, ha dovuto puntare sulla razionalizzazione dei costi, e la massima razionalizzazione si ottiene aumentando la dimensione delle navi, il numero dei trasportati e quant'altro. Le esercitazioni però avvengono sempre. Per forza, ma guardi che le esercitazioni, che sono solo uno degli aspetti che riguardano la sicurezza, non solo vengono effettuate regolarmente, ma vengono effettuate sotto controllo dell'autorità preposta. Le regole ci sono e diciamo che sono rispettate al 99%. E per quanto riguarda i traghetti? Non solo le navi da crociera sono diventate dei giganti del mare, quindi sono più hotel che nave, ma questo fenomeno sta colpendo anche i traghetti. Dopo la Croazia, ora il turno della Serbia, affrontare la trattativa per l'adesione all'Unione Europea. La minaccia di veto arriva da Romania e Lituania, per questo quello che già sembrava certo viene rimesso in discussione. I 27 ministri degli esteri UE dunque sono al lavoro nuovamente per conferire o meno alla Serbia lo status ufficiale di paese candidato all'adesione UE. Decisione che Belgrado sentiva già in tasca prima che la Romania pretendesse misure specifiche per le minoranze rumene in Serbia e che la Lituania sollevasse una questione più generale, vedendo nella Serbia una vera e propria avanguardia di Mosca all'interno dell'Unione Europea. Speranza in una luce verde è stata espressa dall'alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, al fianco del presidente serbo Boris Tadic, volato nella capitale belga ad attendere il cruciale verdetto. Comunque vada la trattativa di queste ore, la decisione definitiva dovrà essere poi formalizzata ufficialmente dai 27 capi di Stato e di Governo riuniti nel Consiglio europeo dell'1 e del 2 di marzo. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Liberalizzazione, accordo trovato sulle farmacie, una ogni 3.300 abitanti, arriva il rating sulla legalità per le imprese. Ancora proteste contro la TAV, la polizia sgombera con gli idranti un presidio sull'autostrada. Restano intanto gravi le condizioni di Luca Abba. Il ministro Cancellieri dice un fatto grave, ci vuole riflessione e dialogo. Il Tesoro colloca 6,25 miliardi di BTP, tassi in calo e buona la domanda. Piazza Affari annulla i guadagni dopo l'asta. E ripartiamo in questa seconda parte di GR 24, ripartiamo dalle parole del comandante generale della Guardia di Finanza sull'evasione fiscale in Commissione Finanza della Camera. In diretta con noi Alessandra Schepisi. Sì, oltre 2,5 milioni di controlli su scontrini e ricevute fiscali è il bilancio dell'attività degli ultimi 5 anni condotta dalla Guardia di Finanza per il contrasto all'evasione fiscale, controlli a tappeto come quelli di Cortina e Napoli, che però non sono una novità, ha precisato il comandante generale delle Fiamme Gialle, Nino Di Paolo, annunciando interventi entro l'anno in tutte le province d'Italia. Secondo Di Paolo è cambiata invece la sensibilità dell'opinione pubblica, ora consapevole che l'evasore non è un modello ma un peso e un pericolo solo per la collettività, c'è dunque più attenzione a questi temi. Nel 2012 è comunque previsto un rafforzamento strutturale delle potenzialità dei nuclei di polizia tributaria. Queste le linee di intervento secondo Di Paolo, sentiamo la sua voce. Contrasto all'evasione fiscale, corretto uso della spesa pubblica, lotta alla corruzione e ogni forma di criminalità sono molteplici, sono sfumature di uno stesso fenomeno spesso, che richiede quindi un momento di sintesi investigativa importante. Quindi questo approccio globale, trasversale, per noi resta un dato fondamentale. E una delle frodi più insidiose e diffuse, ha detto Di Paolo, sono le fatture false, oltre 5.500 denunce ogni anno per un'evasione dell'IVA che arriva a 2 miliardi e mezzo di euro l'anno, il 40% del totale dell'imposta evasa e scoperta ogni anno. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Capone, è risaputo, venne incastrato per evasione fiscale. Era l'America degli anni 30, tutto è cambiato, ma ancora la lotta al sommerso può essere il volano per combattere anche la criminalità organizzata, spiega il generale Stefano Screpanti della Guardia di Finanza di Palermo. Le tecniche che usano gli evasori fiscali non sono poi così diverse dalle tecniche che usa la criminalità organizzata per riciclare, ad esempio, denaro sporco. Le fatture per operazioni inesistenti servono per coprire ingressi in nero di denaro nelle aziende, sia che provengono appunto da evasione fiscale, sia che provengono da attività criminali. Il problema della ricchezza sommersa in questa città, in questa regione, appartiene ancora molto all'area della criminalità organizzata. Intanto pochi giorni fa è passato quasi sotto silenzio il blitz dei finanzieri a Palermo, che con 100 pattuglie hanno controllato il territorio, 254 negozi, 58 ambulanti, il 94% dei quali è risultato irregolare perché non presentava scontrino o addirittura non aveva neppure il registratore di cassa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di Bouvier, la giornalista del Figaro, ferita giorni fa in Siria, si trova ancora ad Homs perché si rifiuta di lasciare la città senza l'assicurazione da parte delle autorità di Damasco che non le venga confiscato il materiale, fra cui foto e registrazioni raccolto in questi giorni. Lo scrive la CNN, anche secondo Al Arabiya. La reporter non è ancora arrivata in Libano, come si era invece detto questa mattina. È invece in salvo ed è in Libano l'altro reporter che era rimasto intrappolato ad Homs ormai da giorni. Si tratta dell'inglese. I pescatori indiani e due militari italiani sono vittime dello stesso nemico, la pirateria. A parlare così il ministro degli esteri Giulio Terzi in una conferenza stampa con il ministro degli esteri indiano. Ci racconta tutto da Nuova Delhi l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Sì, il ministro Terzi ha incontrato il ministro degli esteri Krishna, che lo aveva invitato qua, e tutte e due nel loro lunghissimo colloquio hanno, come dire, sottolineato l'idea di non essere d'accordo riguardo alla storia dei due Marò, perché tutte e due hanno ribadito che le distanze fra Italia e India sono molto molto grandi, non c'è in vista alcun accordo riguardo alla liberazione dei nostri due Marò, ma al tempo stesso, e questa era poi la ragione originaria della visita di Terzi in India molto prima che scoppiasse la vicenda appunto dei due Marò, ma al tempo stesso appunto i due ministri, ma anche i due governi vogliono ribadire che l'importanza di questa visita è anche il rilancio dei rapporti economici con un paese come l'India, che per noi dovrebbero essere essenziali, invece in questi anni sono stati piuttosto mediocri, soprattutto se paragonati invece ai nostri rapporti con la Cina. La tua sensazione è che comunque questa vicenda De Marò in qualche modo stia compromettendo questa visita, che appunto aveva un valore assolutamente diverso? È una visita che ha due ambiti completamente diversi. Una è quella appunto, quella originaria, una visita che ha un carattere principalmente economico. Il ministro qua a Delhi con un gruppo di imprenditori, di aziende importanti italiane. Questo sta funzionando bene, è andata bene. I rapporti bilaterali sotto tutti gli aspetti funzionano perfettamente. Poi fuori c'è quest'altra vicenda che invece sicuramente, almeno non c'è nessuna volontà da parte dei governi che questa vicenda possa rovinare i rapporti, però fatalmente questa vicenda va avanti, si prolungherà oggi tra l'altro a Cucinel, che era la CE sciopero, uno sciopero generale, quindi nessuno, l'indagine non va avanti. E comunque in ogni caso, anche senza lo sciopero, l'indagine sarà ancora lunga e la soluzione ancora non è visibile, proprio perché ci vorranno ancora giorni. Sicuramente questa sera, adesso stiamo per partire per Cucinel, cioè per andare, il ministro andrà a visitare i due Marò, ma sicuramente non se li porterà a casa. Grazie a Duco Tramballi, inviato del Sole 24 Ore a Nuova Delhi. L'urbanizzazione lascia centinaia di milioni di bambini che vivono nelle città senza accesso ai servizi di base, casa, scuola, servizi medici. E anche se costantemente in calo, la mortalità infantile nel mondo registra ancora cifre drammatiche. 7,6 milioni di bambini muoiono ogni anno prima dei 5 anni. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF sulla condizione dell'infanzia nel mondo presentato questa mattina. Al microfono di Katia Caramelli, il presidente UNICEF Italia, Giacomo Guerrera. Queste condizioni di disagio vengono di fatto poi nascoste dalle medie statistiche su cui si basano le decisioni per gli stanziamenti delle risorse, poiché le medie, raggruppando i dati di tutti, la povertà di alcuni è oscurata dalla ricchezza degli altri. E la conseguenza diretta di questo fatto è che i bambini più svantaggiati restano esclusi dai servizi essenziali. In queste aree sono 8 milioni i bambini che non raggiungono i 5 anni di età per cause come la polmonite, la diarrea, le complicazioni di parto. Quello che è di grave è che nelle aree urbane praticamente questi bambini sono accanto a coloro che hanno invece una condizione di vita diversa e sono accanto alla gente che hanno modo di poter notare queste situazioni e poter intervenire e dover intervenire. Bambini che vivono negli slum, che vivono nelle baraccopoli, bambini che vivono ai margini delle grandi città. Sta per arrivare, addirittura d'arrivo, il piano del ministro Riccardi per i Rom, che riguarda anche l'accesso appunto dei bambini e dei ragazzi Rom all'istruzione. Come valutate questo piano? Sicuramente lo valutiamo in senso positivo, perché l'istruzione è fondamentale. Va benissimo la cittadinanza ai bambini nati qui in Italia anche da genitori stranieri, almeno pari dignità, pari occasione rispetto a quello che concediamo ai nostri figli. Operazione trasparenza nella sanità lombarda. Da giovedì, prima di dimettere un paziente, l'ospedale deve comunicargli i costi sostenuti per curarlo. Non è d'accordo il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi. Lo ha intervistato Adriana Fracchia. Secondo me è sbagliato, per il semplice fatto che se si vuole educare il cittadino a quanto è costosa la buona sanità lombarda, ci sono molti altri metodi. Si possono fare delle campagne di stampa, si può fare educazione sanitaria nelle scuole, si possono pubblicizzare i dati generali di quanto è costosa la sanità e quanto il sistema sia in equilibrio precario, per cui tutti devono contribuire a un appropriato uso di risorse e via dicendo. Ma al singolo dire guarda, sei ammalato di tumore, oppure guarda, hai avuto l'infarto, io ti ho curato, ma mi sei anche costato tutti questi soldi, no, questa credo sia la strada sbagliata. Insomma, indubbiamente la medicina scolastica era un punto di riferimento per tutti. Si potrebbe pensare a reistituire questa figura del medico scolastico. Un buon medico scolastico potrebbe fare tanto da questo punto di vista. Noi dobbiamo investire su chi sta crescendo, perché sarà il cittadino di domani. Rispetto l'opera dei magistrati e dunque ringrazio Di Martino per il lavoro che sta facendo, ma ho sentito anche il presidente della FIGC Abete e quella dell'amnistia sportiva è un'ipotesi irrealizzabile. Il presidente del CONI Gianni Petrucci commenta così l'idea lanciata dal procuratore di Cremona sul calcio scommesse. Ed ora il compleanno di un mito della nazionale e della Juventus. E così fanno 70. Dino Zoff, un nome, un mito, gira la boa dei 70 anni con quella sua faccia un po' così di friulano triste che non cambia mai. Già nelle figurine Panini con la prima maglia del Mantova sembrava vecchio, figurarsi adesso. anche se è un bel vecchio con la schiena dritta, come quando, dopo le critiche di Berlusconi per la finale persa al Golden Goal con la Francia, chiuse la porta e se ne andò. 330 partite con la Juventus, mai una domenica in malattia, tanto che il portiere di riserva, Massimo Piloni, rimase per sempre il dodicesimo. Poi Zoff è stato soprattutto il portiere della nazionale, 112 partite, prima campione d'Europa nel 1968 e poi campione del mondo in Spagna nell'82, a 40 anni suonati. Lo avevano dato per finito, che non ci vedeva più, perché aveva preso 2 gol da lontano dall'Olanda ai mondiali del 78. Zoff Limitz, ironizzò Giorgio Forattini, e anche Gianni Brera non fu da meno. E invece Zoff è tornato e ha vinto con la sua coppa al cielo, con Pertini e Berzot che ridono felici come bambini. Insomma, questa è stata una soddisfazione straordinaria, vincere il mondiale, il capitano, 40 anni, è stato il massimo della felicità nell'ambito del lavoro, certamente. Quello è stato lo Zoff più bello, anche se poi ha lavorato bene anche come allenatore, ma gli allenatori per diventare come Mourinho Sacchi devono dire ripartenza, non contropiede. E Zoff, anche oggi, continua a dire contropiede. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni, prossimo GR 24 alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.